Meno Lauricella con la felpa Mountain Ski Patrol, cioè sono quelli che ti vengono a salvare se sei sotto la valanga. E no? Cioè sono quelli che ti vengono a salvare, e cioè fai la traduzione. Sì, Mountain Ski Patrol. Quindi? Non so, la pattuglia dello sci di montagna, però immagino che, visto che ha una croce anche, sia la pattuglia di soccorso. Sì. Quindi tu sei sotto la valanga. Quelli che arrivano con il toboga quando tu ti sei rotto e con gamba. Il San Bernardo, e quindi tu dici, aspettiamo, speriamo che arrivi qualcuno, e arriva... Carmelo Lauricella con la felpa verdina. Che ti guarda velocemente, fa una diagnosi e dice: è morto. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da capo. E un saluto da Drago. Non sorridere, cos'hai perché? Da essere contento? Cosa sono c'è? Contento, ma certo che sono contento. Ormai Chiedo Asilo, ragazzi, è ascoltato da tutti. Possiamo essere più che contenti. Dopo Rodotà, dopo Santoro, dopo Chomsky, possiamo dire che ci ascolta anche il ministro Riccardi. Chi? Il ministro Riccardi per la cooperazione e l'integrazione, non lo conosce, Andrea Riccardi, sì, è quello con la barba bianca, l'aria mite. Sembra un po' il frate. Sembra un frate, bravo, esatto. Quindi insomma, il ministro Riccardi ha capito che il vero problema dell'Italia è l'infantilismo, come diciamo noi qui da ormai 2 anni, e ha deciso di prolungare il periodo in cui mamma e papà possono congedarsi dal lavoro per badare ai figli. Prima si poteva solo fino al compimento dell'ottavo anno d'età del bambino, adesso si potrà fino al 18° anno. Del bambino. Chiamalo bambino a 18 anni. Appunto. No, appunto, cioè sì, appunto, Riccardi si è reso conto che i genitori ormai devono badare anche ai figli adolescenti, che sono tutti incapaci di autogovernarsi, e se non hanno i genitori che li seguono finiscono nei guai sul web. Ma cosa stai dicendo? Certo, figli adolescenti con entrambi i genitori che lavorano, cosa fanno tutto il giorno in casa? Stanno sui social network e alla lunga finiscono nei guai. Ma guarda che c'è anche un lato buono nella riforma, scusa, anche i nonni potranno finalmente prendere un congedo dal lavoro e permettere ai loro figli di non assentarsi da loro, è una bella idea, funziona, sì. No? Vabbè, peccato che i nonni ormai siano quasi tutti pensionati, a meno che non siano nonni di 50 anni. Ma Drago, con la riforma delle pensioni i nonni che lavorano sono destinati ad aumentare, Anche io e te, cosa credi? Cosa? Credi che quando saremo nonni saremo già in pensione? Ma io spero proprio di sì, visto che non sono nemmeno padre. Tra 40 anni ho 85 anni, quindi diciamo che l'eventualità che io diventi nonno è veramente remota. Più vabbè, che stia ma lavorando, tu sei tu, anche... l'Italia è l'Italia, io stavo pensando all'Italia, no? L'Italia tutta intera. L'Italia! Qui c'è De Gregori, vabbè. Tra qualche numero del tempo di quando sarebbe fatto il caso di andare... Tra qualche tempo il numero di vecchi costretti a lavorare sarà enorme. Ma che lavori faranno? Questa è la domanda. Non pensiamoci che mi viene l'angoscia. Potrebbero fare i babysitters. Ma già lo fanno pure gratis. Babysitters. E poi ci sono vecchi e vecchi. Certi vecchi, ahimè, sarebbero babysitter bisognosi di una badante, il che renderebbe le cose alquanto complicate. Vabbè, ma allora che lavori? Quali lavori? Quelli che stanno già facendo adesso, cioè. Sì, ma se a un certo punto li mandano via con una scusa, cosa, per motivi economici. E beh, possono fare ricorso e chiedere il reintegro. Ma intanto il tempo passa e sai che quando si è vecchi il tempo diventa molto importante. Sì. Il tempo passa e man mano che passa tu diventi sempre più vieux. Quindi? Fino al punto. Ma no, capo, adesso non è il caso di evocare addirittura. Ma è il destino di tutti quanti. No, che a un certo punto. No, dai. Anche Drago. No. È morto. E tu no. Tra un anno saremo punto e capo. A tagliare così sono capaci anche i bambini. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. Le persone che chiedono asilo nido vengono sottoposte ad un esame che deve accertare se fuggono da situazioni di non libertà per loro pericolose, e allora diamo il diritto di asilo. Vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco che sei ancora più vecchio, che sei ancora più vecchio. Più vecchio di così non sei mai stato ed ora ecco più vecchio di così. La settimana scorsa, Drago, credo fosse martedì. La settimana scorsa, 2 giorni fa. Ah, ecco, vedi. Abbiamo registrato la settimana scorsa. Roberto Libertà. Roberto Libertà, figlio Bossi. Di Bossi, sì. Ne abbiamo parlato martedì scorso, bravo. Sì, ragazzino. È stato condannato a pagare 3.800 euro di risarcimento perché ha tirato addosso a un altro ragazzo un gavettone di candeggina. Candeggina. Tu avevi detto ammoniaca, ma in realtà. No, vabbè, sì, uguale più o come meno. Come uguale? Idrogeno allora, liquido. Allora, formula chimica della candeggina. No, non lo so, non mi interessa. Trielina, io c'ho tutti questi. Formula nomi. Chimica dell'ammoniaca. Acquaragia, non lo so, acquaragia. L'acquaragia non è una formula chimica, Drago. Vabbè, la formula chimica, avanti, allora. CH2O2 alla quarta, non so, così, perché ci sono quattro neutroni. Adesso non vado avanti finché non me la dici giusta. No, vabbè, ma ne abbiamo parlato ieri della formula chimica dell'ammoniaca, Drago. Stai mentendo sapendo di mentire. Sì, vabbè, comunque è NH3, l'ammoniaca, mentre la candeggina è... Non lo so. Naclo. NaClO. Allora, Roberto Libertà tira i gavettoni di NaClO. Sì, okay. Anzi, di NH3. Vabbè, ma lasciamo perdere Roberto Libertà. Ma il vero figlio famoso di Bossi adesso è diventato quell'altro, di Forelle. Di Forelle, cioè di Forelle, la trota, il trota. Sì, 23 anni, fresco, ex consigliere regionale lombardo. Vabbè, ma cosa possiamo aggiungere di più sul trota rispetto a quello che le cronache hanno mostrato già impietosamente? Senza ma perché quando di parlano di Renzo Bossi le cronache fanno sempre ridere? Io non capisco questa cosa qua. Forse Renzo Bossi. Bossi sotto sotto un grande comico. E quindi ha sbagliato strada. Cioè, adesso ha fatto bene a dimettersi, così può. Può fare quella carriera lì. Suo padre ha cominciato come crooner. Come crooner, lo spettacolo ce l'hanno nel sangue i Bossi. Crooner. No, ma no, il crooner era l'altro, era Silvio. No, Silvio era più mainstream, mentre Bossi, padre, da giovane, faceva parte dell'underground musicale Beat. Si faceva chiamare Donato e cantava cose come Ebro. Come Ebro? Ebro è il titolo del lato A del suo flexi disc 45 giri. E il lato B? Sconforto. No, no, il titolo. Sconforto. La sera mi parlano d'amore. Forse non è tanto beat, è un po' post-folk. È Bossi, Donato, cioè, negli anni 60 ma cantava. Non di... è lui. Ah, ma perché io ho sentito il remix che ha fatto qualche tempo fa. Era tipo così, però faceva... un po' grind, capito? Un po' scream. Aspetta. Contando. Quanti cuori ci sono? Contali. Tre. Benissimo. Ci sono tre cuori. Quanti rettangoli ci sono? Quattro. Benissimo. Ci sono quattro cuori rettangoli. Quanti rettoridi ci sono? No. 4. Prova ancora. Quanti quangoli ci sono? 3. Prova ancora. Quanti ci sono? 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la risposta esatta. Ci sono 5. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. Tato, post auto, tato, post auto. Questa non la so. Sono le prime tre note del Guglielmo Tell. Scelte come diciamo trillo delle poste svizzere. Tant'è che gli autobus. I postobus, sì, i postali, quelli con il i postali, corno. Quelli nel clacson hanno proprio queste note che fanno tutato, postauto, senti come suona l'ukulele. Ecco, benvenuti nella parentesi svizzera di Chiedo Asilo, ormai consueta, visto il nostro sponsor è svizzero. Però Wunderwaffer. Mi spieghi cos'è sta storia del parquet? È il Wunderwaffer Packet. Appunto, non capisco. È la nuova trovata pubblicitaria della Wunderwaffer. Ma cosa ti spiegare? Ma che cosa consiste? Consiste nell'utilizzo del Wunderwaffer come parquet. In casa. In casa. Al posto del parquet. Metti uno strato di Wunderwaffer. Sì, ma ho capito. Uno fianco all'altro un po' sfasati. Sai come si mette? Ma non scricchiola mentre ci cammini. Sì, si spacca anche tutto, si sbriciola. Capito? Dopo un po' marcisce anche. Vabbè, allora, fantastico. Vabbè, ma è Wunderwaffer, il nostro sponsor, tu. Sì, che però ho capito, ma... Ma niente se, niente ma, davanti allo sponsor tutto diventa bello e tutto diventa possibile. Anche il parquet di Wunderwaffer. Vabbè. Pensa poi se ci piscia il cane. Mamma mia. Say the mama to the baby in the corn. Ecco, bossi adesso. You are my firstborn. Yeah. It's a yawning binola. It's a spotlight. Ma parla inglese, Bossi, non sì. Sapevo. È suo figlio, eh. Oh, vai. No, ma senti, questo qua non è Bossi. È Captain Beefheart. Eh sì, l'avanguardia. Bene, allora, sentiamo tutti sull'avanguardia. L'avanguardia di qualche anno fa, non lo so, insomma. Sì, sì, infatti. Forse è retroguardia adesso. È già finita.